larghi, un orologio appeso al collo. Di quelli che di solito stanno sui muri, sui comodi, gigante quasi quanto la catena col mio nome. Se pensi che sia strana, ribalta la situazione. Ho una radio troppo grossa che funziona senza fili, così grossa che oltre le cassette legge i vinili. E la metto sulla spalla e vado in giro come Rai, una superstar come le superstar dei miei cd. Ho pantaloni larghi e pezzi d'oro sul mio corpo. Se la tua... guarda io la... sono il capo, rappresento la mia casa e i miei fratelli. Sono matto, ci sto dentro, sarà meglio che ti svegli. Ho la macchina più grossa che va forte senza limiti. Pressione d'aria la fa muovere su e giù. Vetri scuri così non mi vedi in faccia. Schiaccia l'acceleratore che va di blu. Pantaloni larghi, pantaloni larghi. Pantaloni larghi, pantaloni larghi. Pantaloni larghi, pantaloni larghi. Pantaloni larghi, pantaloni larghi. Ho una radio troppo grossa che funziona senza fili. Così grossa che funziona senza fili. E la metto sulla spalla e vado in giro come Rai. In giro come Rai, come Rai. Pantaloni larghi, pantaloni larghi. Pantaloni larghi, panta larghi. Sono matto, ci sto dentro, sarà meglio che ti svegli. Meglio che ti svegli, meglio che ti svegli. Su e giù, su e giù. Pantaloni larghi, pantaloni larghi. Pantaloni larghi, panta larghi. Il nostro nome, Luca e Flavio.